voi che siete prima in questo quarto dibattito tra i candidati alle primarie. In realtà non è il quarto, ma è il quinto, perché domenica scorsa, domenica 13 dicembre, i giovani hanno organizzato, hanno invitato i candidati, i giovani di tutti gli schieramenti, tutte le forze politiche che sostengono le primarie, hanno organizzato in piazza, con una modalità ovviamente giovanile, un dibattito tra i candidati. Per la verità, è notizia di ieri, questo dibattito non sarà neanche l'ultimo, come era previsto, perché venerdì sera ci sarà un dibattito televisivo sul TV Espansione. Notizia che abbiamo avuto ieri e che ci ha un po' sconcussolato, e ringrazio i candidati che, nonostante avessero organizzato degli impegni di chiusura della campagna elettorale, con un po' di salti mortali, insomma, garantiranno la loro presenza in televisione, che è uno strumento comunque, può piacere o meno, ma certamente di grande diffusione ed è un'occasione di visibilità per i singoli candidati, ma anche per le primarie in quanto tali, perché avremo circa 2 ore di diretta televisiva, che è un'occasione ovviamente da non perdere. Questo ringrazio i candidati che, avendo già degli impegni, hanno un po' cercato di far combaciare un po' tutti i loro impegni. E poi ovviamente l'appuntamento principale sarà quello di domenica prossima, domenica 27. Ricordo che si vota dalle 8 alle 20, ci sono 18 seggi su tutto il territorio comunale, abbiamo appeso nei giorni scorsi dei manifesti, forse poco visibili, mi è stato detto, ed è vero, saranno pubblicati nei prossimi giorni anche sul giornale, sono tendenzialmente gli stessi seggi che sono stati utilizzati anche nelle primarie precedenti. Mobilitazione di circa 100 persone, volontari che gratuitamente si prestano a fare questo servizio, quindi anche questo è un ringraziamento doveroso a chi dedicherà la propria domenica, ovviamente tornando, per garantire lo svolgimento di questa competizione. L'obiettivo ovviamente è quello che noi, non solo noi, ma portiamo tante altre persone a votare, indipendentemente dal candidato che ciascuno di noi sostiene. Questo perché più saremo, più gente voterà per giorno, più daremo un segno di volontà di reale cambiamento in questa città di cui sentiamo tutti l'urgente bisogno. Detto questo, due sole parole per l'incontro di questa sera. Il tema che abbiamo scelto, abbiamo parlato di mobilità, traffico, ambiente, urbanistica, giovani, cultura. Oggi, ultimo tema, non meno importante per la verità, per una realtà, una coalizione di centro-sinistra che vuole mettere al centro delle proprie proposte politiche la persona, il tema è quello delle situazioni di sofferenza, di disagio sociale, disagio, perdita del lavoro, cerca di abitazione. C'è tanti temi che interpellano sicuramente la città e, soprattutto, riguardano una fetta anche significativa, dovrebbero riguardare una fetta significativa delle risorse del bilancio comunale. Ci aiuterà questa prima parte, un'introduzione che abbiamo chiesto a una persona che per esperienza, competenza, passione, professionalità poi si presenterà da solo, che è Adriano San Pietro, credo che molti lo conoscano, ci introdurrà al tema di questa sera, così aiutandoci con alcuni dati, con alcune provocazioni, suggerendo alcuni temi che poi saranno oggetto del dibattito. Il dibattito poi sarà moderato da Mauro Migliavada, giornalista dell'Ordine, che pure ringraziamo per la presenza e che poi ovviamente lui gestirà, anche raccogliendo domande, suggestioni, interrogativi che potranno lasciare dal pubblico. Mi fermo qui perché i protagonisti della serata sono loro e inizio subito dando la parola ad Adriano San Pietro. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti. Quando mi hanno invitato per fare un po' il buttantreno in questa iniziativa, sono rimasto un po' dubbioso, devo dire. Dubbioso perché è difficile mettersi nella condizione di raccogliere in tempi brevi un argomento così importante, si sente adesso? Un po' di più. Un argomento così importante come quello delle tematiche che mi sono state assegnate. Ho cercato di fare una selezione tra le cose che potevo dire, anche perché le devo collocare in un contesto, e il contesto è quello di una corsa tra candidati per mettersi nella condizione di correre come candidato sindaco di Como, in alternanza con altre candidature che sembrano essere numerose, che si stanno rappresentando via via sullo scenario della città. E anche questo potrebbe essere un argomento che io lascio gestire al coordinatore dell'incontro, perché il tema di tante liste che scendono in campo per correre alla candidatura di sindaco pone un approccio sicuramente metodologico anche tra chi di loro e riuscirà a spuntarla e diventare punto di riferimento per chi vota in questo alveo della politica. In questo senso, questo è un primo argomento che io lascio alla considerazione dei candidati, che è quello di rappresentare, la capacità di rappresentare una sintesi in una città che sta ritornando a una situazione originaria, adesso gioco un po' con le parole, come nasce in una palude. Io temo che stia rientrando, ritornando ad essere una palude, se già non lo è. Nel senso che ci sono delle grosse difficoltà di frammentazione, di divisione, di contrasto, di protagonismo, che mettono nella condizione le persone che sono attente alle cose della città e che amano la città a sentirsi molto abbandonati e molto sconsolati. Questo è un tema sul quale io credo noi dovremmo puntare, voi dovrete puntare molto l'attenzione, perché giusto dire che la politica è uno sguardo alla città, è un approccio alla città fatto di certe modalità di approccio che sono diverse da altri approcci che vengono fatti. Ma è anche altrettanto vero che noi, voi, dovrete cercare di uscire dalle secche di una situazione di stallo che io ho visto rappresentata in questi ultimi anni nella città, che è quello di essere protagonisti di programmazione e di strategie che cambiano completamente le modalità di approccio alla risoluzione dei problemi della città. Nel campo dei servizi sociali, e comincio a intervenire in questo campo dal punto di vista anche qui metodologico, io ho vissuto in quanto assessore ai servizi sociali molti anni fa situazioni che erano molto diverse rispetto a quelle che oggi si rappresentano. Non dico meglio o peggio, dico situazioni metodologiche diverse, perché allora c'era tutto concentrato nell'attività dei servizi sociali, e io ci aggiungo anche, per mio sfizio personale, per mia passione personale, le politiche giovanili, perché queste fanno parte di una nuova povertà che sta fortemente avanzando. Potrei entrare nel merito, ma il tempo che ho a disposizione non me lo consente. Lascio solo traccia per dire che la nuova povertà dei giovani che non trovano lavoro, la nuova povertà dei giovani che hanno delle grosse difficoltà a darsi un senso, la nuova povertà dei giovani che sono, tra virgolette, costretti a uscire dall'Italia per trovare modalità di realizzazione, ci pongono enormi interrogativi e pretendono da noi e pretendono da voi grandi risposte. Apro e chiudo una parentesi veloce: so che si è costituita all'estero un'associazione di giovani comaschi che sono usciti dal nostro paese e che hanno intenzione di rientrare, ma non sanno che cosa venire in Italia a fare e venire in una città come Como a fare. Questo è un dato che non inventiamo, è un dato oggettivo. Per chi lo è interessato a questo tema potrei dare anche dei riferimenti precisi. Allora, metodologicamente credo che l'approccio debba cambiare. Per chi si candida o si candiderà domani a fare il sindaco, un tema importante è quello dell'essere capaci di costruire rete istituzionale e di essere capaci di costruire rete anche nei confronti di chi vive le condizioni del privato sociale. Ci sono, allora, io parlavo prima con alcune persone prima dell'inizio di questa sera che mi hanno riportato nella testa, il problema vero che io trovo quotidianamente nel lavoro che faccio, che è quello di una continua separazione, perché è talmente alto oggi il problema dell'approccio individualistico o di settore nei confronti delle cose, che spesso il giudizio che viene dato nei confronti di chi fa la stessa cosa o modalità analoghe in altro modo viene immediatamente bollato come una cosa che non funziona, che non vale, che non è. Allora, questo è un modo importante di perdere energie, di perdere significato. Faccio un esempio istituzionale legato al problema dei servizi sociali e dico ai candidati o al futuro o comunque ai candidati che sono in corso oggi che la cosa importante è di considerare in questo sistema di rete i cosiddetti piani di zona. Allora, piani di zona, un flash veloce, sono la rappresentazione di ciò che c'è in un territorio, 25 comuni per la precisione, per quello che riguarda l'ambito di Como, ufficio di piano di Como, relativo ai servizi sociali, ai problemi di natura sociale che sono presenti all'interno del nostro territorio. Il piano di zona è un documento che viene rinnovato ogni 2 o 3 anni, è stato appena rinnovato recentemente, ed è frutto di un lavoro molto importante fatto sia dai livelli comunali, quindi dai 25 comuni che appartengono a questo ambito, ma in modo e quindi dai servizi sociali di competenza dei singoli comuni, ma soprattutto e anche all'interno di questi, e questa esemplificazione, ci sono i cosiddetti tavoli tematici e i tavoli tecnici. Io credo che queste cose, alle quali io ho partecipato fino a poco tempo fa perché ero coordinatore dell'ufficio di piano della zona Como, io ho visto raramente dei politici, tra virgolette, degli amministratori partecipare a queste cose. Questo, per una serie di ragioni, mi porta a dire che un presidio importante da parte di un sindaco e da parte di chi con lui correrà, e quindi, usando un termine sportivo come si usa fare, con la sua squadra, dovrebbe mettere in atto un meccanismo di controllo, di vigilanza e di presenza costante a questi ambiti territoriali, perché è un modo concreto di conoscere il cosiddetto terzo settore. Molte volte noi conosciamo, voi conoscete il terzo settore perché avete delle frequentazioni importanti sul piano personale. Sul livello istituzionale il fatto di presenziare, di coordinare e di essere presenti, avete titolo di farlo, a questi lavori, diventa uno dei requisiti o dei prerequisiti per poter svolgere bene un'attività. Ritorno un passo indietro per dire, ritengo, ma qui è un giudizio, una valutazione di esperienza, ritengo che sia importante che chi di voi sarà vincente nella corsa delle primarie entrerà quindi nell'altra corsa, che è quella di essere candidato sindaco al comune di Como, metta al primo posto, proprio per cambiare un po' la metodologia che abitualmente si fa, quella di mettere in evidenza subito qual è la squadra che correrà con lui. Credo che sia una cosa fondamentale. Perché? Perché la gente oggi, è inutile che stiamo ad allungarci su queste cose, le vediamo tutti i giorni rappresentate nei media, quindi al punto che ci siamo anche stancati di seguire queste cose, credo che cosa fondamentale sia la necessità di ritrovare nell'approccio delle cose, quindi anche nella esemplificazione delle rappresentazioni, il fatto che sia un gruppo di persone che corre che abbia delle competenze specifiche. Questo perché noi molte volte ci trinceriamo dietro la parola rete, molte volte termine molto ambiguo e molto confuso, quasi una sorta di nebulosa che non si capisce, perché chi manovra la rete molte volte ci sfugge, per dire che perdiamo di vista quello che è una caratteristica fondamentale. Credo che sia un valore condiviso da tutti i presenti e soprattutto dai quattro candidati alle primarie, che è il valore della relazione. Noi viviamo in un mondo dove la relazione si sta perdendo, dove fondamentalmente anche a livello istituzionale la possibilità di affrontare con criticità, con argomentazioni serie, con interventi ragionati, con modalità costruttive, passa in secondo piano rispetto alla ferocia degli insulti, della volgarità e di cose che non hanno diritto di cittadinanza in una situazione civile, civica, come quella che noi cerchiamo di rappresentare. Quindi piano di zona e tutto ciò che lo contorna diventa uno dei punti forti sui quali io credo voi dobbiate puntare. All'interno dei piani di zona poi ci sono una serie di priorità che non sto ad elencare, ma sulle quali i temi forti sui quali i comuni stanno ragionando oggi, ma è già un paio d'anni che stanno ragionando, è il cosiddetto fondo di solidarietà che possa venire incontro a situazioni di precarietà e di difficoltà che di immediatezza che si possono rappresentare sul nostro territorio. In questo senso il fondo di solidarietà viene deciso da un accordo di programma che viene siglato di anno in anno, e su questo fondo di solidarietà si investono fondi che i singoli comuni mettono a disposizione per favorire la cosiddetta solidarietà, l'intervento nei confronti delle realtà che nascono con difficoltà enormi o con situazioni di fragilità. Un altro elemento importante, inutile ripeterlo, lo ritroviamo anche negli studi fatti da soggetti del terzo settore al nostro livello, cittadino o provinciale, è quello della famiglia. Anche qui, spogliandola da un'enfasi magari molto facile, credo che sia sotto gli occhi di tutti la necessità di intervenire di fronte a fragilità che si costruiscono e si costituiscono nel momento in cui le famiglie saltano. È un fenomeno che sta deflagrando, è un fenomeno che mette nella condizione le cosiddette famiglie monogenitoriali di essere anche nel nostro territorio un elemento fortemente crescente. Questo porta immediatamente a un altro risultato che è legato a filo diretto, che è quello dell'educazione. Mancando situazioni di famiglia stabili e consolidate, si creano immediatamente situazioni di difficoltà nell'attività di educazione che viene rivolta ai figlioli. La scuola interviene per quello che può, ma è già una delega data, e poi ci sono situazioni di fragilità che vengono ripercosse immediatamente nella cosiddetta difficoltà di orientamento scolastico, perché le fragilità poi incidono su questo tema. E un altro tema che sta diventando forte anche nei nostri territori, che è quella della dispersione scolastica, cioè gli abbandoni, cioè le situazioni che non vengono portate a conclusione dei percorsi scolastici, sia sul livello della formazione professionale, molto, sia sul livello dei cosiddetti studi superiori, sui quali c'è una grossa difficoltà di adattamento, perché c'è tutto un background di situazioni che incide. Questo è un altro tema forte che viene dai cosiddetti piani di zona. una delle urgenze che vengono rappresentate sul nostro territorio, che sta diventando poi sempre di più un problema che ho accennato prima, quello legato alla situazione giovanile. Allora, anche qui, la capacità di un amministratore cittadino, sindaco e giunta, di trovare le sinergie adatte nei confronti del cosiddetto mondo istituzionale scolastico diventa cosa fondamentale. Potrei dilungarmi su questo settore perché è una... non posso farlo, potrei dilungarmi, no. ho usato il condizionale, chiarissimo, ma non lo faccio, ma è un tema sul quale meriterebbero attenzione. E si è scaricato. È a tempo? È a tempo. È a tempo. Vabbè, chiudo così a voce. Allora io dico un'ultima considerazione che tra quelle che avevo preparato mi sembra importante ricordare a chi si è messo in corsa, che nel programmare, nel prevedere quello che è il programma elettorale, quindi quello che sarà, avete già cominciato, io raccomanderei di mettere al primo posto quello dei servizi sociali. Ho vissuto per molti anni l'amministrazione comunale, ho vissuto per molti anni le commissioni che si occupavano di queste cose. Vedo che in questi tempi dalla commissione consigliare dedicata a questi temi emerge nulla o quasi nulla. Credo che questo sia un luogo privilegiato da presidiare. Credo che a fianco delle cose istituzionali, ho finito, ci sia la necessità di costruire, e questo è un pezzo forte, un piatto forte che voi credo dobbiate interpretare, cosa che manca a Como è il tavolo del terzo settore. E su questo credo che valga la pena di approfondire un po' le cose. Grazie ad Adriano Sanpietro. Se i candidati sono d'accordo, io imposterei il ragionamento in questo modo. Grazie. Interventi molto brevi, molto secchi, compatibilmente con la complessità del tema che stiamo trattando. Questo è ovvio, però per dare un po' di ritmo alla serata, io farei una domanda preliminare che scorra tutti e quattro i vostri pareri. Dopodiché non mi ancorerei allo schema delle quattro risposte obbligatorie, ma poi a seconda della piega che può prendere il discorso cercheremo di far girare il microfono un po' tra voi. Partirei con una domanda. Sanpietro ha dato molti spunti sia di tipo tecnico, sia di tipo metodologico, sia di tipo poi sostanziale rispetto a quella che può essere la realtà che vi attende o vi attenderà nei prossimi anni, a prescindere dal ruolo che voi andrete ad occupare. Partirei però da una domanda, se vogliamo, un po' semplice, ma che può a favore dei presenti chiarire immediatamente quale possa essere un po' la vostra sensibilità, la vostra posizione rispetto al tema del sociale in maniera generale, e chiederei a Gisella Introzzi, per dovere di cavalleria, di dirci per prima, secondo lei, per quanto ha colto nella propria esperienza, qual è l'urgenza, l'emergenza maggiore dal punto di vista sociale a Como? Una secca e veloce. Mi sembra che sì, nell'introduzione che ha fatto Adriano Sanpietro e che condivido in pieno, forse così sì? Ok, devo sentirlo più vicino. Cioè, mi sembra poter condividere il richiamo ad una situazione di un disagio sociale che deriva dal modello sociale verso cui ci siamo avviati e che inevitabilmente tocca la società a partire dagli elementi più deboli. E il suo richiamo al disagio e alle difficoltà che incontrano le famiglie e che si difficoltà di vario genere che hanno nell'aspetto delle difficoltà economiche un punto di partenza molto grossa, sono difficoltà che inevitabilmente vanno a colpire i soggetti più deboli, i figli, i bambini, e che se non trovano nella società nel suo complesso delle possibilità di aiuto, o meglio l'aiuto dovrebbero trovarlo soprattutto le loro famiglie, ma poi accanto i bambini attraverso la possibilità di sperimentare delle relazioni diverse e positive nel mondo che li circonda, soprattutto la scuola, si inevitabilmente questi ragazzini si infilano in un percorso di disagio progressivo. Quindi sicuramente l'attenzione all'educazione e all'infanzia. Il disagio economico che in questo periodo è sicuramente aggravato dalla situazione di crisi che tutti conosciamo, ma che forse è un punto di vista, mi permetto di fare una critica, limitato ad un periodo contingente. Non so cosa ne pensa Magatti, per te qual è l'emergenza di Como di questo momento dal punto di vista sociale? Le emergenze sono più di una, però io non faccio discorso culturale che magari spero di affrontare più tardi. La madre di tutti i problemi, a parere mio, di tipo economico. Questa città ha smantellato la sua storia industriale, quella che l'ha fatta crescere nel 700 e nell'800, ha smantellato l'asse produttivo che era sul Cosia, che scendeva appunto da costeggiando il Cosia, trasferendo altrove il lavoro, e si è inserito tutto questo in un progetto di tipo speculativo: costruiamo, trasformiamo imprese in residenza, viviamo sulla rendita, questa cosa chiaramente non paga nessuno, tantomeno noi, l'investimento sull'università è stato un investimento sul quale non si è lavorato con la giusta intelligenza, non coloro che l'hanno fatta nascere, ma ovviamente la rete di cui parla Adriano, da lì secondo me nascono tutta una serie di problemi. È chiaro che poi se vogliamo entrare nei dettagli ci entriamo, però c'è un problema abitativo, c'è un problema di lavoro, c'è un problema dei giovani, c'è un problema come dire, di tensione sommersa, la fatica, noi adesso non sto a dirvi la cifra che noi come comune, ma presente gli oltre 40 milioni che la regione Lombardia spende per il sostegno all'affitto. Questa è una delle vicende più paradossali, a parere mio, che succede nella nostra società. Noi tendiamo a come dire, intervenire rispetto alla fatica di una persona a reggere come dire, l'onere della casa usando risorse pubbliche anziché generando possibilità di queste persone di stare in piedi da sole. Poi c'è tutta la grande questione complessa di chi sono coloro che finiscono dentro queste storie complicate e difficili e perché ci finiscono. E quindi mi permetto di ricordare quello che ci dice un sociologo secondo me significativo, che è Dahrendorf, un sociologo liberale, il quale ci dice che bisogna evitare che altre persone finiscano in quella storia. Quindi ci sono due problemi: il problema di quelli che sono in quelle storie e il problema di quelli che rischiano di cascarci. Allora dobbiamo, secondo me, non dimenticare due aspetti del problema, perché quello che non risolviamo oggi è il problema di domani. Allora, due mondi sui quali lavorare. Mario Lucini, esiste per te una categoria, una fascia di popolazione più bisognosa di altre oggi a Como? Io, se posso, ritorno sul concetto generale che secondo me li racchiude tutti. Secondo me il problema principale che ci dà la chiave di lettura per poter affrontare tutti gli altri è quello della perdita progressiva di consapevolezza di far parte di una comunità. Quindi la chiave è il recupero della relazione all'interno della comunità. Una comunità basata sulle relazioni è in grado di recuperare le fasce di difficoltà. Se nella difficoltà, per la deriva che stiamo prendendo, ognuno cerca di salvare il salvabile per se stesso, è evidente che non si salva nessuno. Per cui, secondo me, l'inversione di tendenza è indispensabile, è quella di recuperare questo senso comunitario che ci consente di affrontare tutte le difficoltà. Le categorie sono molte, io non mi sento di indicarne una, ci sono le famiglie monogenitoriali che sono in grossissima difficoltà legate agli aspetti economici, ci sono i giovani che non riescono a entrare nel mondo del lavoro, ci sono le persone 40-50 anni che perdono il lavoro e che non hanno prospettiva di un rientro immediato e che finiscono a dormire sotto i portici e non c'è soluzione per loro. Ci sono gli stranieri che devono cercare di inserirsi nella società, ma secondo me la chiave di lettura unica è quella. Senza quell'approccio nessuno ne viene fuori, secondo me. Grazie Lucini, abbiamo visto che è l'unico che potrebbe non aver bisogno del microfono per farsi sentire. Scusate. Marcello Iantorno, allora anche a te la stessa domanda, con un'aggiunta anche per te, ma se, come dice Lucini, bisogna recuperare un senso di comunità, è possibile che in questi anni, negli anni recenti, nelle amministrazioni precedenti, sia andato smarrito questo senso? Qual è l'amministratore che ha interesse a smarrire questo senso di comunità? Se mi permetti, vorrei rispondere alla domanda che è stata fatta e che poi anche comprende questa che in particolare è stata rivolta a me. Io credo che il problema centrale, forte, in questo momento a Como sia il problema della casa, il problema abitativo. In particolare per tre gruppi o categorie di persone, anche per l'attività che svolgo, io lo verifico e lo accerto tutti i giorni dopo di tempo. Innanzitutto i giovani. Noi vediamo, assistiamo, questo è un fenomeno nazionale che comunque si è accentuato anche nella nostra città, il fenomeno appunto di giovani che oramai magari giovanissimi non sono più, che per vari motivi di lavoro, di opportunità eccetera, perdurano ad abitare con i propri genitori anche in età avanzata. C'è il problema poi, diciamo, delle coppie che c'è un fenomeno crescente che è il fenomeno delle separazioni, che in particolare viene vissuto in modo drammatico, con un impoverimento generale, quando la stessa coppia magari si tratta di persone monoreddito oppure di reddito, ma ovviamente lavoratori dipendenti, diciamo, di socialmente a livello medio-basso, che non è poco. Il terzo fenomeno che è veramente grave, è molto accentuato, peraltro sono dati statistici che abbiamo ricavato anche dalla settore sociale del comune, è il problema degli immigrati. Gli immigrati a Como, in una situazione di perdurante crisi economica, gli immigrati a Como sono oltre 10.000 e quindi voi potete immaginare di origine extracomunitaria, in una situazione di crisi economica e spesso gli immigrati sono famiglie monoreddito perché magari lavora solo una persona, per ragioni varie ma anche per ragioni culturali, una certa categoria di immigrati, dove il fenomeno della perdita del posto di lavoro è un problema assolutamente drammatico che si traduce poi nell'impossibilità di pagare gli affitti, nel fatto che sono accentuati gli sfratti per morosità oppure anche la impossibilità per le categorie deboli di accedere al prestito o di far fronte a mutui di recente acquisizione che determina poi la vendita all'acqua della casa. Io credo che questo sia il problema veramente centrale, che in termini concreti, considerato che il problema della casa, l'housing sociale è sicuramente un settore di intervento dell'amministrazione comunale, può allora in una nuova amministrazione determinare una svolta per affrontare e cercare di attutire questa gravità del fenomeno che, al quale facevo riferimento. Devo dire che la risposta di Iantorno è quella che mi ha convinto di più per un motivo, perché mi ha parlato di un ambito prettamente comunale, poi San Pietro mi corregga se sbaglio. Voglio dire, i problemi che ha messo sul tavolo Adriano San Pietro sono problemi chiaramente evidenti, ma spesso poi sono di competenza sovracomunale. Allora chiedo a Bruno Magatti, che ha esperienza molto lunga di consiglio comunale, facciamo una scrematura e cominciamo a parlare delle cose che potrebbe davvero fare un sindaco nell'ambito dei propri poteri. L'housing sociale sicuramente rientra nelle competenze di un'amministrazione comunale tramite l'organizzazione urbanistica e sociale. E qui, prima di parlare di quello che dovremmo fare, dovremmo dire tutte le occasioni perse in questi anni, perché adesso non dobbiamo dimenticare quello che è successo fino a qui, perché se dimentichiamo la storia La storia sta nel fatto, come abbiamo raccontato prima, della trasformazione di aree destinate una volta al lavoro in residenza. In tutti questi interventi sono previste realizzazioni di standard, vuol dire verde, parcheggi o qualcosa in funzione della qualità urbana del grande insediamento che si va a fare. Noi abbiamo insistito sempre che tra gli standard da realizzare lì dentro ci fosse l'housing sociale, cioè la realizzazione di appartamenti per categorie deboli, nell'idea, magari un po' ingenua, che il collocare distribuiti nel territorio in situazioni positive delle situazioni deboli significasse creare una sorta di risorsa anche di sostegno a quelle situazioni, anziché realizzare le case tra virgolette ghetto in alcuni quartieri, sommando all'interno di queste vicende tutte le sofferenze del mondo, tutte le povertà del mondo, tutte le razze del mondo, tutte le religioni del mondo. Andate in via Anzani e provate a vedere quell'immobile che si trova appena prima del ponticello, lì dentro c'è tutto il mondo, c'è tutto il mondo che soffre, e poi siccome c'è una persona che magari ha più capacità delle altre, quella diventa il punto di riferimento di tutti i mali che stanno lì attorno e fa da parafulmine e cerca di fare da interfaccia e mediare. Questo compito non tocca al meno debole degli inquilini che stanno lì dentro, tocca alla collettività organizzare dei servizi. Io ho proposto, l'ho fatto con una lettera al sindaco, all'assessore, al dirigente dei servizi sociali, di collocare lì dentro l'ufficio di un assistente sociale, perché abitasse quella situazione. Noi dobbiamo completamente ridisegnare la funzione dell'assistente sociale e da ridisegnare ex novo. Sulla questione adesso non voglio entrare troppo lungo, ma dei piani di zona. L'idea dei piani di zona è di per sé una buona idea, mettiamo insieme 25 comuni in maniera tale che le risorse di 25 si sommino. In realtà quello che è successo è che la risorsa dell'unico ente che aveva un po' di risorse, il comune di Como, si è spalmato su 25, per carità va bene così, però la situazione dal prima all'oggi è che le risorse sono mediamente molto meno, anche se ovviamente abbiamo dei tavoli tecnici, dei tavoli che ovviamente discutono le emergenze e cercano di trovare le risorse. Allora, io credo che la prima cosa da fare, e mi spiace dirlo, ma oggi il Comune di Como ha un dirigente dei servizi sociali, come si dice, a scavalco, cioè un dirigente di un altro settore che temporaneamente, chissà fino a quando, gestirà anche questo settore, con due effetti. Il primo effetto è che tutti sanno che quello rimane per un po', non fa progetti a lungo termine, non si scalda più di tanto, perché prima o poi questo concorso arriverà e arriverà finalmente la persona che prenderà in pugno la situazione. Allora è chiaro che bisogna dare una testa a questo segmento. Bisogna che qualcuno, con ovviamente le competenze anche tecniche, perché io sono d'accordo quando Adriano San Pietro dice che lì ci stanno solo i tecnici, ed è anche vero che io ho fatto parte di una commissione di servizi sociali, lì si parla quasi sempre d'altro, ma è anche vero che il terzo settore, coloro che operano nel sociale, in genere interagiscono con i tecnici. Difficile che coloro che operano, come dire, con le povertà che abitano la nostra città vadano a interagire con la politica. Si crea un cortocircuito tra chi sta dentro gli apparati comunali e coloro che lavorano nel terzo settore. Questa è una questione, credo, assolutamente conclamata, con un grave effetto, che ovviamente la politica non si assume le responsabilità che si deve assumere, cioè delle priorità, degli investimenti e delle scelte. Voglio entrare in un segmento specifico, poi divento troppo lungo, capisco. Però, per esempio, sul tema della disabilità, noi abbiamo portato a Como, dopo che ci fu la legge del 98 che consentiva percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità, dimostrando come una persona che realizza un progetto di vita indipendente costa meno alla collettività intera di una persona ricoverata in un istituto. Bene, questa cosa va avanti perché ogni volta bisogna ricaricare la molla, perché sembra che i soldi non ci siano. Il tema sociale, e San Pietro sarà d'accordo, è all'origine un tema urbanistico, dunque le due materie si mischiano e si completano. Mario Lucini, tu che hai seguito anche da vicino in questi anni la questione urbanistica, che è secondo me la grande questione di Como, secondo te, visto anche l'iter del piano di governo del territorio che è in corso a Como, quali poteri reali avrà il prossimo sindaco di intervenire in questa materia? Secondo me ci sono molte possibilità di modificare un trend che sicuramente è quello che ha descritto, non sto a ripetermi, se no, che ha descritto Magatti in modo corretto sul tipo di indirizzo urbanistico che è stato dato in questi anni allo sviluppo della città, cioè la sostituzione delle aree dismesse con degli altri pieni di residenza, monetizzando il più possibile piuttosto che individuare servizi, cessioni di servizi sulle aree. Diciamo che in questi 5 anni è stato realizzato circa il 50% dei piani attuativi che erano individuati dal vecchio piano regolatore. La scelta fondamentale per il piano del governo del territorio, prima di tutto, è: si riconfermano questo 50%? Non pienamente, sembrerebbe. O comunque sembrerebbe con altri criteri, anche se il piano delle regole non l'ha visto nessuno, per cui non lo sappiamo. Comunque, se anche ci fosse l'idea di confermarli, un conto è confermarli secondo le modalità che sono state attuate fino adesso, un conto è invertire la rotta, cioè invertire le possibilità di edificazione, invertire le modalità di individuazione dei servizi pubblici previsti dalle norme urbanistiche per ogni insediamento, per cui non necessariamente un pieno in degrado deve essere sostituito con un altro pieno di cemento che non riusciamo poi a riempire però di persone, perché tutti questi pieni di cemento sono per 3/4 vuoti perché sono fuori mercato dal punto di vista dell'accessibilità all'abitazione. In più abbiamo l'occasione nelle aree periferiche, con una diversa gestione delle cessioni, di individuare, tornando al discorso dell'inizio, spazi di relazione. Spazi di relazione, spazi dove i cittadini possono incontrarsi, i bambini possono giocare, gli anziani possono giocare a briscola, e questo può ricreare comunità. Questo è decisivo per il futuro della città, perché in questa situazione ricordiamo che il 75% degli appartamenti degli ultimi piani attuativi sono vuoti e ci sono in provincia di Como 600 nuclei familiari in lista d'attesa per avere un'abitazione convenzionale. Cerco di chiudere. Bravo Lucini, che sei schematico. A Gisella Introzzi io vorrei chiedere questo, che mi è venuto in mente mentre ascoltavo i suoi concorrenti, che sono tre amministratori, chi di maggiore, chi di minore esperienza, e hanno dunque delle conoscenze anche tecnico-burocratiche che vi aiutano nel ragionare su questi temi. Lei che è un po' l'outsider in questo campo, per certi versi sotto il profilo squisitamente dell'amministrazione comunale, come si sta muovendo e in base a quali tipi di conoscenze e di figure si sta servendo per farsi un'idea della situazione e per cercare di darsi poi quello che potrebbe diventare un programma elettorale? Io spero che lei mi consenta anche di recuperare il tempo che prima, essendo molto ligia al suo richiamo alla sintesi, ho concesso agli altri, perché ci sono alcune cose su cui, prima di rispondere alla sua domanda, vorrei fare delle precisazioni. Io non credo affatto che il Comune di Como non abbia delle primarie responsabilità in ambito dei servizi sociali. Basta pensare ai compiti in materia di asili nido, di scuole materne, di scuole primarie e di servizi associati a queste attività, che sono attività di base, ma anche sui servizi sociali. Non è un compito, diciamo così, accessorio che il Comune si può permettere o meno, è assolutamente al primo posto nelle responsabilità e nelle competenze di un Comune. E io sono totalmente d'accordo con San Pietro quando dice nel programma elettorale mettere al primo posto i servizi sociali, perché è pensare alla vita quotidiana dei cittadini. E il richiamo che facevo anche alle condizioni di disagio che una società come la nostra procura e di cui ci dobbiamo preoccupare, situazioni di disagio che non sono solo nella crisi economica che picchia forte in questo momento, ma che sono situazioni di disagio che derivano da un modello sociale che impone a tutti quanti dei costi molto elevati e che si trasformano in sofferenza sociale. Basta pensare ad una competizione eccessiva, a delle disuguaglianze sociali elevate, alla situazione di eccessiva precarietà e di insicurezza che è sicuramente una delle componenti rilevanti che sta dietro le crisi familiari. Ecco, quindi il mio prima riflessione sul tema dei servizi sociali, che è il punto di partenza, è che noi ci dobbiamo far carico di costruire un modello di società, in questo senso sono d'accordo con l'appello ad una comunità più coesa e più viva che faceva Lucini. Il nostro primo obiettivo è di lavorare per una città in cui la convivenza civile, la comunità sia più forte e più estesa. E questo non per generico buonismo, ma anche perché il contrasto al disagio sociale, che poi vuol dire costi, lo si combatte innanzitutto creando le premesse, creando una società in cui la rete delle relazioni, i valori di relazione siano al primo posto. Quindi è il modo anche da aiutare a uscire da quel dilemma in cui diversamente gli operatori sociali sono costretti e sono spremuti e non sanno come uscirne, che la domanda, il disagio sociale aumenta, la domanda di aiuto da parte della cittadinanza aumenta, le risorse per far fronte diminuiscono e ci si impazzisce. Quindi volevo in questo modo precisare il mio concetto. Io non sono stata in consiglio comunale, però sinceramente non mi sento handicappata dal punto di vista di conoscenze e di strumenti. Ho un'esperienza nella pubblica amministrazione molto ampia, varia, ho lavorato in diverse realtà, ho lavorato in un contesto a cavallo tra il pubblico e il privato, in un contesto che si è occupato soprattutto di sviluppo economico per le imprese, ho visto anche esperienze di partenariato molto profonde, molto forti, realizzate in altri enti locali. Il principale modello di partenariato a livello regionale, mi scusi questa immodestia, che è un accordo di programma fra la Regione e le 12 Camere di Commercio Lombarde, quindi fra il sistema che rappresenta gli interessi delle imprese, delle piccole e medie imprese, è un modello a cui personalmente ho lavorato e di cui sono l'estensore per la parte del sistema camerale assieme a un dirigente regionale. Quindi non mi sento sinceramente in una situazione di inadeguatezza nell'affrontare i problemi. Senza presunzione ritengo invece che proprio avere avuto l'opportunità di fare esperienze in ambiti diversi e più ampio mi ha arricchito, in quanto mi ha consentito di vedere perché in certe realtà alcuni progetti anche ambiziosi sono andati avanti e in altre no. E al primo posto nelle ragioni di successo c'è indubbiamente un elemento che anche qui mi richiamo ad Adriano San Pietro, con cui non ci siamo messi d'accordo per la relazione, ma evidentemente, avendo avuto esperienze lontane e comuni, ci fa parlare ancora lo stesso linguaggio. Dicevo, al primo posto indubbiamente c'è la cooperazione fra le istituzioni. Il comune, ma nessun comune, può affrontare e risolvere problemi gravi, grossi, come quelli appunto del disagio sociale, ma anche problemi di sviluppo urbanistico, di lotta all'inquinamento, senza la capacità di allacciare intese profonde con le altre istituzioni. Ecco, io questo credo di portarlo. Sono abituata a lavorare con le persone e ad andare ad ascoltare chi ha competenze e chi ha qualcosa da dire. Collegandomi a quanto ha appena detto Gisella Introzzi, vorrei restare sul piano del pragmatismo con Marcello Iantorno, perché lui sa bene che le spese di investimento per i servizi sociali assorbono una quota importante al momento del bilancio del Comune di Como. Per quanto riguarda le spese correnti, sono di gran lunga il capitolo che assorbe le maggiori risorse. Ora, questo si scontra un po' con la critica che è stata mossa da voi candidati rispetto all'operato di chi oggi sta governando, perché effettivamente i numeri dicono che c'è stata un'attenzione, c'è stato un investimento in quel settore. Tra l'altro si va incontro a tempi grami dal punto di vista del bilancio comunale, si parla di possibili tagli per 12 milioni di euro nel prossimo bilancio da suddividere tra investimenti e spese correnti, vuol dire una mannaia di quelle madornali, Marcello. E allora come si fa a criticare il passato e a promettere un miglioramento sul futuro quando di soldi ce ne saranno sensibilmente meno? Ti ringrazio Mauro, mi pare che in effetti la spesa per i servizi sociali ammonti a circa il 18% dell'intera uscita del bilancio comunale, circa 20 milioni di euro, e che il rapporto tra spese correnti, quindi che sono spese praticamente di amministrazione, no? Rispetto a quelli in conto capitale, mi pare che l'ultimo bilancio dà un rapporto di 99% sono le spese correnti e l'1% le spese in conto capitale. Ora, per esempio, prendiamo settori, il settore degli asili nido, che peraltro Como sicuramente tra le città, da questo punto di vista, le cui esperienze sono state apprezzate, apprezzabili, mi pare che l'intera spesa ammonti a circa 5 milioni di euro, con una copertura della domanda di circa, io direi, non sbaglio, 8-5-4, circa l'80%. Perché noi abbiamo una lista, abbiamo su 500 posti, 515 posti, 510 posti della domanda, perché sono 515 posti in asilo nido, ne sono coperti, ho una lista di attesa di 80 bambini, che è dovuta, ed è questo, e veniamo alla domanda, sostanzialmente a una carenza di organico. Perché voi sapete che ci sono anche delle leggi regionali che prescrivono un rapporto docente, educatore e bambini, quindi nel momento in cui gli educatori sono insufficienti non si possono raccogliere tutte le domande, quindi 80 bambini sono in lista d'attesa. Quindi il problema è cosa fare, tant'è che per esempio l'attuale assessore in una dichiarazione alla stampa ha accennato alla possibilità, comunque c'è una reazione assolutamente contraria da parte dei sindacati, di una chiusura dei due asili nido, quelli frequentati da minori e bambini, l'ora è un altro asilo. Allora, cosa fare in una situazione drammaticamente di crisi dal punto di vista del bilancio? Io intanto ripeto quello che ho detto l'altra volta, io spero che l'attuale governo nazionale, sulla base anche delle cose che si annunciano, possa alleggerire quella che è la prospettiva drammatica degli enti locali. Noi abbiamo una situazione che ante governo Monti prevedeva una minore entrata da parte del comune di circa il 10%. Facciamo finta che però non migliorerà. Io credo che migliorerà e ci saranno degli interventi che anche in relazione al cosiddetto patto di stabilità, che potrebbe essere meno rigido, io prevedo, questa è la mia previsione, che vale quello che vale, che potrebbe essere meno drammatica, però facciamo finta, stiamo al gioco. Allora io dico, l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco ora, e che sono in grado anche di indicare le direzioni, che ci sono margini di risparmio importanti su cui intervenire e dove magari possiamo mantenere e salvare il livello di servizi sociali che attualmente il comune sta erogando. Quindi allora se noi arriviamo sul tema, ci sono, e noi sappiamo quali sono, perché sono state peraltro oggetto di attenzione sulla stampa in questi anni, io dico l'ordine di grandezza, lo butto lì, magari possiamo risparmiare con un intervento senza per questo assolutamente diminuire l'efficienza della PA, dell'amministrazione comunale, diverse centinaia di migliaia di euro, ci possiamo arrivare quasi a milioni di euro. Che significa che se questo è vero, mi riferisco ad alcune figure apicali, ad alcuni risparmi, eccetera, io per esempio anche al riferimento che faceva Bruno prima, riguardo attualmente il settore sociale ha un unico dirigente, il settore anche educativo e il settore sociale. che è la dottoressa Gualdoni. Io peraltro ho avuto con lei un dialogo, perché noi in effetti abbiamo da circa un anno e mezzo questa situazione, l'ex dirigente è andato in pensione, non è stato sostituito con una nuova, è andato via, però non è stato sostituito, il concorso non è stato poi bandito, per cui è rimasta lei. Io dico, io riferisco quello che mi ha riferito la dottoressa Gualdoni, che peraltro è una persona assolutamente svolge il suo lavoro in modo criticabile, e che lei dice io sono in grado di poter svolgere anche nel futuro questo compito, ho soltanto necessità di un rafforzamento del personale interno, magari anche, le diceva, attribuendo a una delle sue collaboratrici o collaboratori la cosiddetta posizione organizzativa, tale per cui con una spesa di, non so, 1.000 euro l'anno io riesco a risolvere e gestire in modo efficiente, il che significherebbe, e io ho finito, pongo soltanto il problema, non ho la soluzione, un ulteriore risparmio di 100-120 mila euro fra indennità, retribuzione, che voglio dire, nell'ambito di questa logica ci sono concretamente, ho dato anche dei riferimenti concreti, la possibilità di mantenere, sia pure una situazione estremamente difficile, l'attuale prestazione di qualità e di quantità dei servizi sociali. Mario Lucini, io spesso sul mio giornale ti critico dandoti del ragioniere, perché ti trovo spesso, io che già sono pragmatico, persino troppo pragmatico, invece hai sollevato il tema della socializzazione, che è per nulla ragionieristico, però è anche difficilmente afferrabile. Ora, non è che la socializzazione si può decidere per delibera, sono processi lenti, faticosi e complessi. Sentendovi, l'ha detto prima San Pietro, ma da voi non ho ancora capito quale potrebbe essere l'interazione tra il pubblico e il privato in materia appunto di socializzazione. Cioè, avete parlato per ora, come anche in seguito alle mie domande, di ciò che potrebbe fare il comune. Ma con chi potrebbe fare il comune in questo ambito così delicato? In Como c'è una realtà associativa di vario genere, dal livello culturale al livello volontaristico in ambito sociale, molto, ma molto ricca. Molto ricca e molto trascurata in termini di rapporti collaborativi da parte dell'amministrazione comunale, questo mi sembra evidentissimo. Anzi, a volte questa realtà di presenza sul territorio di tipo associativo viene un po', tra virgolette, usata dal comune, dall'amministrazione comunale per lavarsi un po' la coscienza da evitare di affrontare alcuni problemi e nasconderli sotto il tappeto dell'intervento associazionistico. Vediamo tutta la parte di servizi che sono stati per esempio convenzionati con la Caritas dal punto di vista dal dormitorio allo sportello dell'immigrazione, tutti questi servizi sono stati delegati totalmente senza neanche un rapporto di stretta relazione e collaborazione a realtà esterne all'amministrazione comunale. Allora, a me non sembra assolutamente difficile o impraticabile quello di creare tra tutte le realtà associative presenti sul territorio e l'amministrazione comunale, in particolare per gli aspetti relativi ai servizi sociali, ma pensiamo anche alla realtà giovanile, dei tavoli di lavoro, delle consulte, degli strumenti nei quali i rapporti tra amministrazione comunale e realtà associative sono resi più efficaci, c'è una corresponsabilizzazione di tutti i soggetti, non c'è né lo sfruttamento né la delega a gestire determinati servizi per la popolazione, ma c'è un lavoro comune per darsi una mano, per creare quella rete di cui si parlava, per darsi una mano ad affrontare i problemi. Credo che questa sia una cosa assolutamente fattibile, praticamente a costo zero, ma a guadagno non solo in termini di resa sul territorio, ma anche di crescita del senso della comunità, impagabile. Per cui questo mi sembra una cosa del tutto fattibile e il primo impegno da assumere. Bruno Magatti, che è un buon conoscitore dei processi, soprattutto di quelli non rapidissimi, a lui chiedo, tipici dell'amministrazione, tra l'altro, soprattutto l'amministrazione comunale, dico, chiedo questa cosa, però, a me sentire parlare di tavoli e di consulte, ormai ne sento parlare da molti anni, mi viene un po' l'orticaria, perché mi danno la sensazione, anche da esperienze passate, di inconcludenza. Ora, non esiste un altro strumento, un altro metodo per raggiungere in termini più rapidi e più efficaci i risultati in un campo come delicato come quello del sociale? Allora, adesso mi prendo anche un po' di tempo, perché nel frattempo ho pensato tante cosettine, quindi le voglio dire. Non se lo prende, sono io la prossima volta, sì, parlo 20 minuti. Allora, sulla questione delle funzioni delle consulte, tra l'altro Adriano è uno di quelli che con la sua coda di lavoro di assessore iniziò a strutturare la consulta dei servizi sociali, poi si è arenata e è rimasta lì. In realtà poi, parliamo della seconda degli anni 90, si era pensato un alberello con tanti rami, con tante consulte. La parola consulta capisco che genera immediatamente sospetto, ma è opportuno che delle persone che fanno delle cose, come dire, senza mai incontrarsi, si riferiscano in qualche momento a qualcuno che dovrebbe avere la regia e che è l'amministrazione comunale. Dico subito che il tema dei servizi sociali in Consiglio Comunale non arriva praticamente mai. E anche per questo che il discorso che si faceva prima, tutti preferiscono andare dal dirigente, dall'assistente sociale, in Consiglio Comunale mai. Le delibere che riguardano il Consiglio Comunale sono, per esempio, ma l'esempio non è scelto a caso, delineare la curva di contribuzione per le rette dei nidi. Questa curva, sulla quale abbiamo discusso n volte, ha una serie di condizioni, non voglio fare troppo il difficile, anche perché il professor della Vigna si è addormentato, è l'unico che magari poteva darmi un po' retta, sto facendo una battuta. La curva che noi tracciamo dice due cose. Primo, la nostra idea di giustizia, nel senso che se noi chiediamo che chi ha un certo reddito paghi un tot e chi ne ha un altro ne paghi un altro, però produce una serie di effetti. L'effetto che si è generato in questi anni è che, per esempio, costi troppo alti per categorie economiche che hanno magari una certa capacità di contribuzione hanno tagliato la cima, cioè queste persone non mandano più bambini al nido, trovano altre soluzioni. E invece dall'altra parte abbiamo i nidi che si riempiono di situazioni fortemente fragili, che arrivano a pagare poco più di nulla. E questa è una questione seria, nel senso che è giusto che sia così, certo che è sostanzialmente giusto, ma noi ci siamo posti la domanda se non abbia senso invece andare a lavorare perché quelle situazioni siano risolte in altra sede, nel senso che il lavoro, la casa e tutte queste vicende tengano in piedi una famiglia o una persona che ha quella situazione, piuttosto che precipitare dentro il capitolo dei nidi che poi i giornalisti prendono e dicono ahi noi qui si... il costo del nido è esagerato, chiudiamo e ammazziamo una cosa fondamentale che è il sostegno alla genitorialità, la possibilità ovviamente per le persone di mantenere un'attività di lavoro, un'attività professionale o entrare nel mondo del lavoro. Quindi questo è un tema molto complesso che non possiamo semplificare e banalizzare. Adesso io mi permetto di dire che se andiamo a enunciare i principi siamo certamente noi che siamo qui tutti d'accordo. Però la questione è come andare invece a affrontare i problemi. Qui c'è qualcuno che è di Cadindustria, non vi dico chi sia. La vicina di Cadindustria è esemplare, nel senso che era una certa struttura che aveva una relazione diretta con l'amministrazione comunale, è diventata una fondazione, cioè un ente di diritto privato che fa, tra virgolette, forse quello che crede. In realtà non deve fare quello che crede, ma deve fare secondo le persone mandate ad amministrare ci devono andare con un mandato che il Consiglio Comunale, l'amministrazione deve dare. Bene, quella storia che cosa ci insegna? L'avete sentita, qualcuno l'ha vissuta da vicino, qualcuno l'ha vissuta da lontano, ci insegna che i meccanismi della sola efficienza non funzionano. Non funzionano dentro una questione delicata e complessa come questa. Esiste qualcosa che è la qualità della vita delle persone, che si misura su un'altra unità. Allora, il bilancio del comune ha dentro questa cifra enorme di spese per i servizi sociali, ma sono spese, adesso mi si permetta di dirle, che hanno radici in un modo di pensare il sociale che oggi non funziona più. Quando Adriano dice dobbiamo incontrarci sul tavolo politico e il tavolo tecnico, io sono d'accordo, ma che cosa vuol dire? Allora, va ancora bene che una persona disabile, cito questo esempio perché su questo so parlare anche a fondo, venga istituzionalizzata, e che un anziano venga messo in istituto e cateterizzato, anche se magari potrebbe in altre condizioni avere una vita, come dire, più libera, più dignitosa, eccetera, con costi che devono essere misurati ovviamente nell'insieme, non soltanto in quello che gli do in quel momento. Allora, questi progetti, che sono progetti ovviamente che persone che vivono quelle vicende stanno portando avanti, sono la sfida, non sono solo la sfida dal punto di vista culturale, sono anche la sfida dal punto di vista economico. Se noi sappiamo che un istituto una persona ci costa 3.000 euro, se questo ci chiede 2.000 euro per portare avanti un processo di autonomia, gli diciamo che sono troppi. Questo succede oggi. Per cui capite che noi siamo dentro una rigidità e, se volete dire, un'inerzia, per cui si è fatto così, si è sempre fatto così, e quindi quell'istituto ovviamente si aspetta che noi continuamente lo riempiamo in quella maniera. Non sto parlando di scadenza, sto parlando di altre cose, sto parlando di disabili, e allora questa cosa non funziona più. È evidente che noi siamo qui per dire che questi sono i processi da rivedere. E quando diciamo che siamo disponibili a stare in questa partita, vuol dire che siamo disponibili a ragionare di questi processi e a metterli in discussione. Non significa che domani mattina buttiamo per aria tutto, ma che da domani mattina ricominciamo a discutere tutto questo modello, il modello della virgolette assistenza, chiuse virgolette. Se torniamo al problema dei processi che generano la necessità di un'assistenza, questo è un altro paio di maniche, ma ancora non l'abbiamo affrontato. O perlomeno ne abbiamo solamente dato cenno. Però in questo momento sto dicendo che, dal mio punto di vista, sono i modelli con i quali si affronta l'assistenza, tutti, dalla curva delle tariffe all'istituzionalizzazione, solo per fare due esempi, che vanno rivisti. Gisella Introzzi, ha accennato lei al problema, no? alla dimensione giovanile, di cui spesso si parla anche un po' a sproposito, a modi slogan e a modi, non mi riferisco a lei chiaramente, ma diciamo nella propaganda politica generale si tirano in ballo spesso i giovani un po' come strumento appunto propagandistico. Per quella che è la sua percezione del livello giovanile comasco, pensa di implementare azioni dedicate ad hoc sulla, chiamiamola così per semplificazione, usando l'ennesimo slogan, la questione giovanile? Allora, rapidissima premessa, io considero veramente che non solo per la città di Como, ma in genere per la nostra società, i giovani siano veramente la risorsa più importante, ma non per ragioni di principio, per ragioni anche puramente numeriche. Sono una fascia d'età assoluta in riduzione, sto parlando dei giovani sotto i 25 anni, abbiamo una componente giovanile decisamente inferiore a quella delle altre regioni d'Europa, ho in mente in modo particolare i dati lombardi, e quindi questa è una risorsa preziosa, preziosa per il nostro sviluppo, preziosa per la sopravvivenza della società. Una società fatta solo di anziani che campa con il lavoro di un numero ridotto di giovani, evidentemente più in difficoltà ed è meno produttiva. La produttività si misura anche con l'equilibrio demografico fra fasce d'età che lavorano e no. Quindi merita la nostra attenzione. Complessivamente ce n'è pochissima. Mi fa piacere questo riferimento a giovani comaschi all'estero interessati a rientrare. Io sabato mattina ho avuto il piacere di incontrare un gruppo di 35-40 anni con delle attività professionali abbastanza specializzate, che hanno fatto delle esperienze all'estero, sono da poco rientrati e di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di vivere in una città in cui le loro famiglie, i loro bambini possono avere delle condizioni di vita attrattive. Le bellezze della città di Como sono innanzitutto un'occasione per attirare anche manager di tipo internazionale che possano contribuire alla bellezza, alla crescita qualitativa del nostro territorio. Iniziamo a tenerci i giovani in gamba che abbiamo, soprattutto se hanno fatto esperienze di questo genere. Credo che si tratti semplicemente di mettere a disposizione delle occasioni di scambio, di incontro, di maturazione di esperienze profonde. Ci sono delle realtà, ma sono spezzettate. Io penso proprio che consentire di coltivare meglio la loro creatività e la dimensione relazionale che è fondamentale per i giovani sia un aspetto importante. Se posso aggiungere rapidamente un'altra cosa, ricollegandomi ai discorsi di prima, penso che un modo per valorizzarli e legarli sempre di più alla città sia ad esempio anche riconoscere quel lavoro veramente prezioso e importante che molti giovani ad esempio fanno nel volontariato. Questa è una scoperta bellissima che io ho fatto in queste settimane. E quindi ritornando, e mi ricollego rapidamente al discorso sui servizi sociali, soprattutto di fronte alle risorse scarse che abbiamo, e anch'io preferisco essere pessimista per il futuro, ma poi ottimista con la volontà, cioè una delle prime cose che può essere realizzata è quella che gli operatori chiamano il welfare mix, e cioè un ruolo del settore pubblico che più marcatamente è un ruolo di progettazione, di creazione di condizioni di collaborazione estesa anche ad altri elementi. Gli altri elementi essendo il volontariato, l'associazionismo privato, che ripeto è ricchissimo e di qualità a Como, e il mondo della cooperazione sociale. Triangolando meglio, invece paradossalmente mi sembra che viceversa si creino delle condizioni di conflitto, di concorrenzialità. È questo che assolutamente deve essere superato con una migliore integrazione, con un maggiore mix che consenta anche di fare dei progetti molto più sostanziosi e più innovativi. Marcello Intorno, qui però c'è anche un problema, torno sui giovani, perché credo che sia un nodo cruciale poi per il prossimo sindaco, c'è un problema di comunicazione, perché ora non si offenda la platea, però così occhio e croce, la platea di questa sera ha un'età media dai 40 anni in su mediamente, questo vuol dire che voi stessi, candidati alle primarie del centro-sinistra, faticate a comunicare, a far passare un messaggio. Ora, la politica, l'amministrazione non può essere, chiaramente non può ridursi alla mera propaganda, ma è anche vero che la comunicazione fa parte del processo di socializzazione di cui parlava Mario Lucini poco fa. E allora, cosa potete fare, su cosa pensate di lavorare, visto che c'è questo problema atavico, io direi? No, dunque, è chiaro che vorrei essere un po' concreto, perché parliamo qui di amministrazione comunale, perché fare discorsi generici ovviamente non aiutano nessuno. I giovani a Como, in che modo si può il comune rapportare ai giovani? Io voglio fare soltanto due esempi concreti che potrebbero senz'altro avvicinare all'amministrazione e quindi creare un rapporto, diciamo, di vivo, vero, che peraltro è anche richiesto dai giovani. Allora, il problema è innanzitutto per esempio dell'università, certamente è un problema importante. Che tipo di rapporto c'è stato in questi anni tra amministrazione comunale e Università di Como? Io dico zero rapporto, assolutamente inesistente. Noi lo sappiamo perché per esempio il comune di Como si è interessato dell'università unicamente nominando in un'associazione che si chiama Univercomo due personaggi che naturalmente con il mondo giovanile, con il mondo universitario sono lontani anni luce. Io non mangino così perché non sono presente, quindi bene non fare. Allora, il problema centrale, allora, oppure abbiamo parlato dell'università e quindi dei giovani soltanto dicendo come ha bisogno del campus, ma veramente accennando, dicendo solo questo e poi parlando d'altro, perché non si è parlato di nessun'altra cosa. Allora, in che modo si può creare il rapporto? Allora, si può creare il rapporto innanzitutto creando delle situazioni di incontro con i giovani, quindi vedendo per esempio che tipo di esigenze e di bisogni si hanno dopo la laurea, E cosa può fare? Il Comune di Como ha fatto una cosa interessante, che peraltro non è nato neanche all'interno dell'ente comune, ma proviene dall'esterno, sia pure ancora a livello di delibera, ma non concretizzare, che il famoso collegio che dovrebbe essere realizzato in via Tommaso Grosso, sicuramente quello è un indirizzo interessante che avvicina il mondo universitario, il giovane che ha studiato, ed è un problema. Un altro problema riguarda per esempio il tempo libero dei giovani, per esempio. Cosa si fa a Como perché i giovani possono vivere la loro giovane età in un modo svago, intelligente, di qualità, eccetera? Assolutamente nulla. Perché, pensa, Como non ha cinema, Como non ha sale di musica, Como non ha sale di incontro, Como non ha sale di lettura, perché ovviamente sono cose che noi stiamo dicendo oramai ad ogni incontro, no? Quindi pensiamo alla biblioteca che fino a ieri ci piaceva che il tetto era rotto. Peraltro, voglio dire, spesso non funziona, ha orari impossibili, personaggi insufficienti. Voi potete pensare, allora, quindi voglio dire, il mondo, io ho qualche rapporto anche per il lavoro che faccio, non cito che cosa, però naturalmente abbiamo anche rapporti con i giovani, per esempio appena laureati, nel mondo delle professioni che cercano di entrare nel mondo del lavoro. Non c'è nessun rapporto tra l'amministrazione comunale e il giovane che si è laureato e deve entrare nel mondo del lavoro. Como, per esempio, il comune potrebbe realizzare un rapporto estremamente interessante coordinandosi con il mondo ordinistico, cioè con gli ordini e collegi professionali, che sono diverse decine di migliaia di professionisti in città e nei quali ruotano intorno diverse migliaia di giovani. Voglio fare un esempio. Solo l'ordine degli avvocati, e sono iscritti all'ordine degli avvocati 300 giovani che non sono avvocati. Se io vado a moltiplicarlo con le altre professioni, incontriamo migliaia di giovani. Quindi voglio dire, ci sono assolutamente terreni. C'è il tema del Politeama, che è un tema sicuramente che interessa il tema del mondo giovanile, laddove si tratta di recuperare questa importantissima struttura. Io sto ripetendo da anni, naturalmente, ho letto pochi. Come pochi solo che cade sembra una lacrima sul viso, che per farci che cosa? Per farci per esempio quello che sono progetti esistenti realizzabili all'interno del Politeama e già ingegnati dalla facoltà di ingegneria del suono del Conservatorio di Como, quindi musica di qualità, spettacoli, teatro, luogo di incontro e così via. Quindi voglio dire, il tema dei giovani è un tema sicuramente, c'è molto poi il problema del lavoro, su quale magari dopo possiamo anche ritornarci, visto che io già ho realizzato un po' di tempo. Resto ancora un attimo sui giovani per una domanda da risposta davvero secca da parte di tutti e quattro. Nel centro-sinistra, in particolare nel PD, si parla molto, va di moda il termine di rottamatori, di rottamazione. Esiste nella vostra testa di possibili candidati sindaco una soglia di età media su cui collocare i vostri futuri assessori? Devo dire che è una delle espressioni in politica che meno mi piace, nel senso che credo proprio che la giovinezza di pensiero non sia necessariamente associata all'età, anzi abbiamo dimostrazioni numerose. Io sono una grande stimatrice del nostro Presidente della Repubblica, se abbiamo dovuto rivolgerci a lui per risoluzioni, una visione innovativa, è una bella dimostrazione. A parte questo, però, credo che gli assessori che dovranno guidare il Comune di Como dovranno essere persone scelte soprattutto sulla base della competenza e di una visione veramente innovativa della città, e in queste caratteristiche i giovani, se sono di valore, possono trovare ampia rappresentanza. Ma se è vero che il sindaco di Como ha compiuto 50 anni ieri, ha amministrato 10 anni, se è vero, vuol dire che quando è diventato sindaco ne aveva 40. Non è una grande prova che il quarantenne sia la cosa migliore che possiamo fare. Aggiungo a sua difesa che era meglio a 40 anni che a 50. Facciamo la difesa d'ufficio. Ma allora io penso che fare delle quote non sia sensato. Credo che però uno sforzo di avere una rappresentanza in consiglio, sia a livello di consiglio comunale, sia a livello di giunta, di differenti sensibilità, di differenti mondi di relazione, sia importante. per cui certamente l'età non può essere il criterio per stabilire le priorità, però una ricerca di una pluralità di sensibilità credo che sia fondamentale. Mi permetto di contestarti la cosa delle consulte, perché c'è un'immagine, un retaggio antico, però ci sono moltissime esperienze anche attuali che funzionano, anche perché improntate sul lavoro di preparazione di tipo scientifico, in cui si attivano organismi operativi validi, perché se tutte le associazioni fanno il loro, coltivano il loro orticello, rimaniamo l'orticello. Se riusciamo a mettere insieme le capacità e le sensibilità di tutti, moltiplichiamo le possibilità di intervenire. Chiedo scusa. Precisamente una presenza di giovani qualificati secondo me è assolutamente importante, anche perché ovviamente può essere un veicolo di informazione, di contatti, dei quali un'amministrazione non può assolutamente fare. Posso aggiungere una cosa rapidissima? Sì, non vogliamo essere rigidi. No, grazie. No, ma uno spot pubblicitario a nome di tutti i candidati del centro-sinistra, che spero che la stampa raccolga, l'avere esteso la partecipazione alle primarie anche ai giovani con solo 16 anni è una precisa indicazione della volontà di un coinvolgimento dei giovani per avvicinare alla politica e quindi poi anche a prendersi i loro incarichi. Aiutateci a farlo sapere. Vorrei cambiare, voltare un attimo pagina e parlare di uno di quelli che penso possano essere gli ultimi temi del dibattito, per poi dare spazio eventualmente a domande dal pubblico. Il tema dell'integrazione, che fa parte poi del mondo spesso purtroppo del disagio sociale. Proprio oggi sul mio giornale io ho contestato una presa di posizione da parte di voi candidati alle primarie, criticando la scelta di aver messo l'etichetta di Sawaf Tersisi, rappresentante di una piccola comunità islamica comasca, su questa vostra lodevole iniziativa di estendere il voto anche agli stranieri comaschi. La critica di fondo era usare questo veicolo, secondo me, diventa controproducente sia per lui sia per voi. Ora, a questo riguardo, partendo da questa critica, quale può essere la politica di integrazione che non diventi però appunto un mero slogan per la comunità che si vorrebbe integrare o per voi che magari volete spendere una carta tra virgolette buonista? Bruno. Allora, io lo dico facendo riferimento al lavoro che ho fatto per moltissimi anni, ci ho lavorato con dei giovani, quei ragazzi. Io non ho mai creduto, e non lo credo adesso, che lasciarti intendere mite sapendo invece che cosa ti porti dentro sia una cosa di debolezza, non lo credo proprio. E anche in questo caso noi abbiamo fatto un accostamento non soltanto di questa realtà, ma stiamo accostando questo mondo che è lontano, e sappiamo che questo mondo in qualche modo tende, no, a dire beh, allora io ne approfitto. In realtà il problema è chi è l'interlocutore, cioè io sono molto sereno nella relazione, noi non abbiamo trattato nulla, noi abbiamo semplicemente detto che siamo disponibili e lo saremo sicuramente per dialogare, per costruire. Dopodiché che in questa realtà, e dobbiamo dircelo con franchezza, qualcuno, non dico che sia tu, ma certamente qualche forza politica, abbia marciato e marci su una paura, tra virgolette, sempre più immaginifica, perché questo dobbiamo dircelo. Questo va bene, ma lo sappiamo, però se non rompiamo questo cristallo adesso staremo sempre dietro il vetro. Io non ho nessuna timidezza, non ho nessun imbarazzo, parlo con tutti e raccontate quello che volete di me, ma se volete chiedermi il mio pensiero lo dovete chiedere a me. Io corro il rischio che qualcuno pensi che ci facciamo usare, ma sono pronto ad affermare che noi in realtà stiamo solo costruendo le relazioni di cui parlava Mario, quella società in cui ci si parla senza i muri, di cui tutti vogliamo le premesse, e siamo convinti che questa sia la strada. Dobbiamo anche insegnarlo, qui noi non voglio assumere questa responsabilità, ma insieme credo che ce la prendiamo. La politica ha anche il compito grave di indicare una strada. Cioè, adesso io non voglio diventare retorico, però insomma, qui sono state tante cose di principio e di valore. Stasera stiamo parlando di sofferenza, di sociale, di giovani. Nessuno di noi sta montando sulle fatiche delle persone per farsene uno sgabello. E nemmeno montiamo sugli extracomunitari. Queste sono persone che sono venuti qui con una speranza, con un'idea del mondo occidentale, con anche un'idea di noi. Noi vogliamo mostrare a queste persone l'immagine più alta che questa nostra società è in grado di fornire. Quindi non ci stiamo, lo dico con grande serenità, a un'idea, come dire, di una strumentalità, di un giochino, di un opportunismo, di un calcolo, che poi ovviamente qualcuno è pronto a ritorcerti contro. Su questo fronte la serenità è massima. Questo processo ha avuto un segnale l'altro giorno e va benissimo che questo segnale sia stato anche smaccatamente trasformato. Mi sono trovato bene col turbante. Ma detto questo, ci sorrido e la cosa successiva è: questa è una strada che abbiamo iniziato. Abbiamo detto, questa è una via senza ritorno. Credo che il messaggio sia importante. Qualcuno ha costruito, lo dico perché qui c'è una persona che dice ha lavorato, la via Padova a Milano. La via Padova è diventata un immaginario collettivo perché c'è stato un evento di cronaca nera che è servito a far diventare questa cosa il simbolo di tutti i mali della terra. Lì ci vivono delle persone, si costruiscono cose belle, ci sono le fatiche che facciamo tutti e dobbiamo cominciare a parlare di queste cose senza ipocrisia. Resta il problema di fondo, però, secondo me, che sta nell'accreditamento poi del nostro referente, e da questa dinamica passa poi il processo quotidiano dell'integrazione, perché il timore si scontra appunto con il concetto dell'accreditamento, cioè della fiducia. La fiducia riposta in persone, non in soggetti vaghi. E qui nascono i problemi. Mario, i rapporti con la comunità islamica, per citare il caso più noto e più clamoroso, che negli anni recenti non sono stati semplici e sono stati abbastanza conflittuali, non saranno semplici anche nei prossimi anni. Qual è allora il linguaggio da usare per andare nella direzione, giustamente secondo me, indicata da Magatti, ma nel contempo per dare risposte anche in termini di come dire, rassicurazione a chi vi vota? Non sarà semplice, ma non affrontarlo non agevola le cose. Quindi fino adesso il problema è stato lasciato lì in sospeso, non è stato affrontato, e sicuramente la situazione delle relazioni anche con questi cittadini all'interno della città non è migliorata. Come dicevamo prima, ci sono 10.000 persone straniere su 80.000 nella città, non possiamo far finta che non esistano, non possiamo far finta che non abbiano dei diritti e dei doveri che agiscono contemporaneamente. Il discorso prima i doveri e poi i diritti non esiste, così come non esiste il contrario. Io ho sentito molto spesso da parte di altri esponenti di maggioranza dire prima i diritti poi i doveri. No, i diritti e i doveri sono presenti contestualmente nella nostra Costituzione e nelle relazioni tra le persone, per cui un incontro, un dialogo franco deve partire dal presupposto che questi due elementi debbano convivere, debbano essere riconosciuti contestualmente. Dopodiché noi abbiamo in questo percorso incontrato decine, centinaia di cittadini italiani, altre comunità straniere. Credo che, oltre a quell'incontro di sabato, io non ho difficoltà a dire che non ero imbarazzato, sono al momento rimasto un po' contrariato, perché secondo me anche qui il dialogo nella franchezza deve andare verso un chiarimento progressivo della correttezza dei ruoli. Noi siamo stati invitati ad un incontro, io non ho nessun motivo, come nessuno di noi, per non andare ad un incontro con una persona e con una comunità. Non eravamo stati invitati a una conferenza stampa, per la quale il signore Sisi stava già facendo delle dichiarazioni in televisione delle quali io non ero a conoscenza. Allora, sono cose che secondo me vanno nel dialogo chiarite e superate, questo secondo me non è stato un comportamento corretto, non perché non ci fosse da nascondere qualcosa, ma perché un conto è andare ad accreditare delle affermazioni che non conoscevamo, un conto è relazionarsi con le persone, che comunque con le quali comunque bisogna superare nel dialogo queste incomprensioni per andare avanti. E io credo che questo debba essere fatto, va chiarito. Guarda che, io te l'ho detto, secondo me non è stato un comportamento lineare. Se dobbiamo trovarci per una conferenza stampa lo facciamo, se dobbiamo trovarci per un incontro lo facciamo, ma ecco, quindi un po' di strumentalità nella cosa c'è stata. Lascio per ultimo Ian Torno, gli faccio questo scherzo. Gisella Introzzi, lei ha vissuto e lavorato a Milano per molti anni, quindi conosce una realtà molto più avanzata rispetto a quella comasca in tema di immigrazione e di integrazione di popolazioni straniere. Che realtà si prefigura dunque per Como? È partita probabilmente molto prima, però non mi sembra attualmente di intravedere grosse differenze, tenendo conto che Como è la sesta città in Lombardia come presenza straniera, quindi ci siamo avvicinati molto rapidamente. Mi sembra che nei dati del processo di immigrazione milanese la differenza ci sia quella che è potuta partire molto prima anche una fase di sviluppo di attività imprenditoriali da parte di popolazione straniera. Infatti la percentuale da questo punto di vista è superiore, ma proprio lo metto in relazione al fatto che è un fenomeno di più lunga esperienza ormai. Mi sembra che comunque a Como la situazione della convivenza tra i cittadini italiani e i cittadini stranieri sia su livelli assolutamente accettabili, non ci sono quelle tensioni che in altre realtà si sono manifestate. Da questo punto di vista l'impegno fondamentale deve essere quello comunque di coltivare assolutamente un'apertura, un dialogo, e in questo senso sono d'accordo con quanto diceva prima Bruno Magatti. Rispondere ad un invito di conoscenza, c'è stato questo ma ce ne sono stati delle altre, mi sembra la prima condizione per tenere aperte le porte del dialogo. Io devo dire personalmente ho avuto anche un'altra situazione che è stata sul piano personale leggermente più imbarazzante, era un gruppo di donne con cui mi sono trovata a dialogare, che inaspettatamente, riunione di donne, hanno assunto delle posizioni molto di difesa dei loro uomini in una logica proprio mandate avanti. Ecco, devo dire che anche questo episodio alla fine lo reputo positivo, perché consente di avviare il discorso e di introdurre degli elementi di riflessione loro. L'elemento comune della posizione che tutti quanti abbiamo tenuto senz'altro in questo incontro con la comunità islamica, ma che è alla base del nostro comune pensare, è avere una porta aperta per sottolineare l'importanza del riconoscimento dei diritti, ma anche come occasione per parlare dell'importanza dei doveri e il richiamo al rispetto dei doveri e delle regole. Marcello Iantoni invece è stato il più temerario, perché si è presentato a questa corsa delle primarie dicendo: farò subito la moschea. E allora, confermi. No, intanto voglio dire, approfitto perché devo dire qualcosa al caro Mauro riguardo all'articolo che è stato pubblicato domenica dopo il nostro incontro, perché c'era un tuo bravissimo giornalista al quale abbiamo... Non voglio sottrarmi, magari non mi interessa, però vai signor. No, ma io non sto riferendo ora riguardo al giornale, per carità, abbiamo un rapporto di amicizia e anche di collaborazione, tu mi ospiti a volte spesso, anzi ti ringrazio. No, ma io voglio dire una cosa, perché in quella occasione si è parlato lungamente, io personalmente ho fatto un intervento in questo senso, riguardo ai rapporti che devono intercorrere tra noi e, diciamo, loro, su questo termine che a me non piace, ma tanto per capirci. Cioè, nel senso che peraltro noi non è che ci siamo scoperti sabato, perché noi con la comunità islamica, io personalmente ma anche altri, abbiamo rapporti che ormai sono 4-5 anni, che ci incontriamo, ma sempre nella chiarezza delle posizioni che va, va nella direzione di un confronto serio, profondo, riguardo ai valori della laicità dello Stato e dei diritti delle persone. E in quell'occasione, nell'incontro, sono state dette queste cose, anche come occasione, diciamo, di avvicinamento di culture. Io avrei preferito che i giornali sottolineassero questi aspetti, che vanno sicuramente nel senso di una vera integrazione nel rispetto anche delle identità. Questo lo dico perché il valore culturale di questo nostro lavoro è assolutamente importantissimo. Perché è l'unico modo che in effetti finisce, perché loro hanno indubbiamente una concezione su certe cose che noi non condividiamo, e voi l'avete anche rilevato sul giornale, ma noi la pensiamo allo stesso modo, che riguarda i diritti delle donne, la parità di genere, eccetera, le cose, la nostra cultura. Ma proprio attraverso il confronto anche culturale, che sicuramente Elsis in quell'occasione assolutamente condivideva questa posizione, io lo ricordo benissimo. Avrei preferito che il giornale mettesse in evidenza questi aspetti importanti. Io ho detto e lo ripeto, se io diventassi sindaco un giorno, io lo affermo e lo confermo, è una vergogna che una città come Como, dove abbiamo una comunità di 2500 persone, non hanno il luogo dove pregare, signori. È una vergogna, è una cosa inaccettabile e di una arretratezza culturale dei diritti di civiltà paurosa. Quindi loro hanno assolutamente il diritto di avere la loro chiesa, perché moschea significa chiesa, così come sono, tutti hanno diritto. È un diritto irrinunciabile, irretrattabile, che noi non possiamo assolutamente dire vabbè, poi vediamo quando sarà, attendiamo che. Come? Guardi, io preferisco, e lo ripeto, l'ho già detto, preferisco perdere voti, però la mia posizione è questa, lo dico per cortesia e titolo anche in giro, pubblicatelo, perché questa è la mia, diciamo, è la mia posizione. Riguardo poi, c'è una sofferenza enorme nel mondo degli extracomunitari. Non è vero che noi strumentalizziamo, frequentiamo soltanto dei gruppi, non è assolutamente vero, perché io personalmente, ma così anche gli altri, noi abbiamo un rapporto importante con diverse comunità, dai Filippini all'Equadoregna, al Salvador, di questa città. E vedrete che domenica non ci saranno solo 10 o 50 o 100 musulmani che andranno a votare, ma ci saranno molti esponenti di altre comunità che andranno a votare e esercitare il loro diritto di scelta tra le quattro candidati. Allora io direi, vista l'ora e visto anche un po' il ritmo della serata, che sia il caso, se ci fossero domande dalla platea, di dare voce anche a chi ci sta seguendo. Ci siamo resi conto, chiacchierando, che non abbiamo approfondito particolarmente il tema sociale dell'anziano. Ora, se qualcuno volesse approfondire questo tema e chiedere qualcosa di particolare, per alzata di mano procediamo con le domande. Ci vorrebbe qualcuno che porge il microfono però ai signori in platea. Perché sennò non sentiamo tutti. Mi chiamo Bruno Corias e abito in questo rione. Voi siete al corrente che noi di questo rione soffriamo ormai. Esatto. Allora dico soltanto il nome. Depuratore. Ormai l'amministrazione Bruni ha fatto tantissime promesse. Voi ritenete di avere qualche risoluzione per eliminare questo problema? Grazie. E la puzza è un po' un problema sociale. Più che sociale. Vediamo, io farei rispondere Lucini in questo caso. Allora, in primo luogo, come notizia parzialmente positiva, pare assodato che comunque in questa fase, in tempi relativamente brevi, sarà realizzata una copertura dell'impianto lì dov'è, però senza spostarlo, che già potrebbe attenuare in parte i disagi. Per il resto è evidente che comunque è una soluzione che in prospettiva non è più praticabile per la città. A me non sembra sbagliata l'idea che è tracciata nel quella parte che si vede del piano di governo del territorio, di trasferimento dell'impianto di depurazione sotto la zona dello scalo merci. Mi sembra una soluzione praticabile anche con costi accettabili, e quindi piuttosto che avveniristiche soluzioni a cavernicole all'interno del Baradello, che potrebbero sicuramente essere migliori ma sembrano di più difficile realizzazione in tempi ragionevoli, se si andasse in quella direzione, a me sembra che la soluzione sarebbe percorribile in tempi accettabili. Certo, non, tanto per dire, non è l'anno prossimo, di sicuro. Altra estate, no, a meno che la copertura, almeno qualcosa, io non ho idea di, ci hanno annunciato questo discorso della copertura con queste calotte in fibra sintetica, non ho idea di come funzioni, non stiamo, ci farete sapere voi per primi e poi verremo a verificare anche lì. Qualche altra domanda? Nessuno di voi ha parlato del problema del Sinigaglia, della popolazione del Sinigaglia, che è un problema grosso, no? Sia per l'ordine pubblico quando ci sono le partite, interrompono la passeggiata che per i turisti, perché la polizia blocca tutta la zona, no? Ed è uno spazio che a parer mio potrebbe essere preso in considerazione per attività alternative, per esempio per facilitare proprio quell'aggregazione dei giovani, no? E per sviluppare anche una forma di turismo alternativo a quella dei vecchi, degli anziani, che sembra prevalere ancora a Como. Grazie. Un tema di socializzazione più che urbanistico, Marcello Iantorno, condividi questa ipotesi? Sì, sì, assolutamente condivido. Io sono dell'idea che lo stadio lì deve essere spostato, mantenuta, diciamo, la parte storica architettonica più bella, con l'attività residuale e sportiva, riqualificazione di tutta la zona, togliere le macchine da quella zona e quindi farla diventare un luogo di socialità, e un luogo bello, il luogo più bello della città, e ricco di opere d'arte, di monumenti, quindi di fare un percorso che poi unirebbe Lupo Lago fino al Villa Orlo, il chilometro della conoscenza, eccetera. Questo è il futuro di quella zona, non è altro. Quindi, che poi peraltro non è un'opinione personale, perché coincide anche con gli imprenditori edili che hanno già stanziato 100.000 euro per la riqualificazione della zona che va dai giardini fino all'Angua, e quindi c'è anche uno stanziamento del comune di circa 1 milione di euro per la riqualificazione dei giardini. C'è il progetto peraltro che lo stadio verrebbe spostato e realizzato alla dopo Montano Lucino, quindi è una cosa assolutamente possibile. Luigi Nessi. Sì, sono Luigi Nessi, ma io vorrei riportare l'attenzione sulla tematica della serata. Tra l'altro ci vuole davvero un cambio culturale, perché vabbè, è una serata di Coppa, però la gente stasera che si fa i sociali un po' meno, purtroppo, sia l'Inter, ma cose positive mi sembra. No, ci vuole forse davvero un cambio culturale e una città più attenta, perché diciamolo, non è stato detto, a Como c'è ancora un'ordinanza del sindaco che vieta di chiedere la carità e con multa a chi la fa. C'è una fabbrica dove ci sono molte persone, e questo penso sia una cosa brutta per la città. Ci sono dei rifugiati, però il comune, come è stato presente in quella cosa, meno male che c'è in tante volte c'è qualche prete di strada che collabora e sostituisce, lo dico con amarezza, quello che dovrebbe fare l'amministrazione comunale. No, la mia domanda però era girando in questi giorni e sulle periferie. Ci sono veramente situazioni, come è già stato accennato, magari in certi casi, in certi quartieri dove c'è dentro tutto, mi sembra che ha detto Bruno Gridati. Io vorrei chiedere ai quattro candidati cosa intendono fare per non dico risolvere, che è un discorso molto lungo, ma per limitare oppure iniziare a far sì che queste situazioni diminuiscano. Grazie. Grazie Stefano Legnani. Il tema delle periferie, la domanda sulle periferie la girerei ancora a Gisele Introzzi, proprio per avere il punto di vista più milanese possibile su questo aspetto. Voglio dire, parlare di periferie a Como, per chi ha vissuto Milano, può sembrare quasi paradossale, in realtà non lo è. No, è vero, non lo è, e penso, mi viene in mente una delle frasi che ho sentito negli incontri fatti con la cittadinanza. Allora, sicuramente c'è una giusta protesta per il degrado progressivo delle periferie, che però è stato abbastanza annullato da un degrado altrettanto rapido del centro città. Per cui mi sembra che da questo punto di vista abbiamo ridotto le disuguaglianze. Battuta a parte, per dire che a mio modo di vedere il problema è proprio quello di disegnare, di avere un modello di sviluppo, un disegno di sviluppo complessivo della città in cui il problema delle periferie non sia il problema delle periferie, sia il problema di come rendere tutta la città più vivibile, più accettabile, più attraente. Allora, questo passa senz'altro attraverso la possibilità di avere dei momenti di decentramento dei servizi sociali essenziali per la popolazione, anche per ridurre la necessità di spostamenti, e di avere però non solo i servizi nelle periferie, ma dei momenti di incontro, di accoglienza, momenti in cui la dimensione della comunità, lo sviluppo di una maggiore socialità a cui è stato fatto riferimento, possano effettivamente avvenire. Io ho visto anche attraverso questi incontri delle circoscrizioni che sono anche molto, molto interessanti, molto accoglienti dal punto di vista fisico. Ho l'impressione che non ne vengano colte tutte le potenzialità. Quindi si tratta di valorizzare i luoghi e di andare ad inserire nei luoghi non solo dei servizi amministrativi decentrati, ma anche delle occasioni di incontro, che siano occasioni di incontro tanto per i cittadini italiani residenti quanto per i numerosi stranieri che ci sono. Un'altra osservazione è proprio che ormai la presenza, al di là di una grande concentrazione di cittadini stranieri nella via Milano, però le caselle postali con dei nominativi stranieri sono frequentissime in tutta la città, in tutti i condomini, quindi riuscire a vivere questa dimensione di una convivenza pacifica con gente che viene da altre parti del mondo e viverla come momento di arricchimento per tutti quanti, penso che sia una cosa importante e possa risvegliare proprio anche il nostro senso appunto di comunità. E qui il discorso nuovamente di riuscire a far emergere in modo più visibile, più convinto, quella fitta rete di volontariato, di associazioni, di esperienze le più varie di cui la nostra città è ricca. Questa, lo ripeto, è la mia scoperta più bella che ho fatto attraverso questa esperienza delle primarie. Penso che sia proprio una cosa doverosa, una cosa necessaria per il nostro stesso personale benessere. Ancora due domande, vedo le due signore. Posso parlare anche senza microfono, ma non è una domanda, è una realtà. Allora, senza fare nomi, credo che il primo punto che i quattro candidati dovrebbero considerare è la macchina comunale. La macchina comunale non funziona, ha con tutte le eccezioni ovviamente, e faccio due esempi. Uno è quello che ha fatto Bruno Magatti di quella cosa che sembra una carcere e che è davanti al Dadone e in via Anzani. Se voi andate a vedere dove sono le gronde, allora l'acqua esce sulla strada. All'interno, noi abbiamo fatto uno studio all'interno di quella roba, indecente. È stato denunziato questo discorso. È venuto un tiripini il quale ha detto, oh sì, è vero. Oh, è rimasto lì. La situazione è gravissima, non grave, gravissima. Ci sono degli anziani, poveri diavoli, che stanno in casse, dunque il gabinetto è staccato. Allora, non si sa bene se è attaccato sotto o non è attaccato. Comunque non è attaccato al muro. L'umidità è pazzesca. Chi è che è venuto a controllare? È uno. Due. In via Volta c'era una casa albergo, chiamiamola così, dipendente dalla Cadindustria, che funzionava benissimo, dove gli anziani si erano comprati i loro mobili, dove c'era un centro, dove potevano stare, dove era in città, uscivano, andavano a fare i passi, era in città. È stata smantellata. Di chi è la responsabilità di questa storia? Allora, A, degli assessori, A, del sindaco, B, degli assessori e C, dei funzionari. Allora, i funzionari, con tutte le eccezioni, non funzionano, perché il sistema, diciamo, sociale ha avuto un funzionario famoso. Non vorrei fare delle malignità, però stranamente c'erano delle funzioni che venivano ufficiate, date, chissà come. Preferisco non entrare in particolari, che se no entro in difficoltà. Allora, la macchina comunale ha dei grossissimi problemi, e aggiungo anche che io ho seguito 3 di questi incontri, purtroppo non quello culturale. Sono 2 anni che il museo non ha un responsabile, non è stato fatto nessun concorso. La biblioteca è affidata, c'era una signora direttrice che tra l'altro insegna biblioteconomia all'università. Ma chi è il responsabile di questa situazione? Un essere il quale, guarda caso, è anche indagato. Allora, se a un certo punto vogliamo considerare il sindaco, povero diavolo, la prima cosa che deve fare è fare funzionare queste situazioni. Possiamo parlare di cultura, di urbanistica, di sociale, di tutto quello che vi pare. Ma il sugo è qua. Sentiamo anche la signora. So che questa non era appunto una domanda. No, ma è la domanda. È la domanda risposta era questa. Allora, prego, posso? Perché il dibattito... Allora, si parlava dell'educazione, si sente? Sì. L'educazione dei giovani, di quanto la scuola debba intervenire. Secondo me la scuola ha un'importanza fondamentale, ma perché i giovani... I ragazzi trascorrono molte ore a scuola, quasi più a scuola che con i genitori, se i genitori lavorano, li rivedono alla sera. Allora, in che modo le istituzioni possono lavorare, interagire con la scuola, dico io, perché poi questi ragazzi li vediamo in giro. Seconda cosa molto rapida, per il sociale ci vogliono soldi. Allora, dicevate tutti i soldi, dove li prendiamo questi soldi? Se leggiamo i giornali io vedo 2000 case a Como, appartamenti non accatastati, vogliamo cominciare se ha sbagliato il giornale non lo so, non registrati a catasto, se ci sono due. Eh beh, io l'ho letto sul Corriere di Como, sulla provincia, 2000, e mi sembravano un po' tanti, di pochi hanno sbagliato di 1-0, l'ho pensato anch'io. Comunque, se così è, se così fosse, di lì i soldi si possono prendere. Da tanti appartamenti non affittati, lì qualcosa si può intervenire, perché qui bisogna parlare di concreto, di soldi. Se il segretario generale del comune mi dichiara, l'ho letto, 300.000 euro, portiamoglieli a 120.000, se non lo so, 100.000, non lo eliminate meglio ancora se non serve. Voglio dire, i soldi, qualche milione, insomma, qualcosina, ho finito, è tutto lì. I giovani e i soldi, bisogna andarli a trovare dove sono. A proposito, scusate se mi ripeto. Allora, sul funzionamento, e come ha detto giustamente Cucini e altri, c'è una miriade di volontariato in città, siamo sempre stati trattati come suol dirsi a schifio, nel senso che ci sono, sì, il lavoro che viene fatto dai volontari in tutti i sensi è grandissimo. E se voi vi ricordate quella, quattro bellissimi episodi di Mario Calabresi alla televisione, il primo era il ricordo della sua scuola, che è una scuola vicino allo stadio Meazza, dove è tutto di ragazzi extracomunitari che sono tutti insieme, e poi li ha intervistati e gli ha detto: ma l'Italia è così bella, io sono italiano, sono nato qui, sono italiano e sogno soltanto di stare in questo paese bellissimo. Mi sembra che sia uno splendido esempio. Sicuramente, per quanto riguarda il discorso della classe dirigente del comune e dell'inadeguatezza della stessa e sul reperimento dei soldi, a parte che siamo qui penso tutti d'accordo che sul fatto che ci sia un problema di funzionamento della macchina, sul reperimento dei soldi ora non si può esaurire il discorso, però Iantorno ha già accennato che esistono all'interno del bilancio comunale delle voci sicuramente su cui fare apportare dei risparmi. Lui ha parlato di apicali e quando parla di apicali si riferisce proprio ai dirigenti di cui parlava la signora, al segretario generale di cui parla lei, e quindi sicuramente questo è lo strumento. Più interessante e delicata la domanda sul rapporto scuola giovani, scuola istituzione. Magatti, sei anche insegnante, il comune non ha potere diretto nella didattica o nell'educazione scolastica, però un sindaco ha e una giunta ha sicuramente un'importanza fondamentale in questo. Allora, provo a dire due pensieri. Allora, il primo è questo, il problema di mentalità che Gisella Introzzi ha posto all'inizio del suo intervento, che ha pervaso, come dire, tutto il nostra società, l'individualismo, la competizione esasperata, si riflette anche in un modello che è diventato il modello all'interno della scuola, che è diventato più selettivo, più cattivo, mi permetto di dire questa parola, più cattivo. Adriano prima parlava che tra i temi, insomma, c'è quello della dispersione scolastica come tema centrale. Poi parlano dei giovani, si è messo a parlare dell'università, ma l'università è un segmentino, come dire, di gran lusso. In realtà il problema non sono i giovani che vanno all'università, i problemi sono quelli che interrompono e smettono della scuola in terza media, magari anche prima, quelli che fanno il primo anno delle superiori poi lo ripetono e poi non fanno più niente, quelli che sono stravaccati e non sanno cosa fare per tirar sera. E per questi che cosa proponiamo? Provate ad andare a sentire, perché di questo ho esperienza diretta. L'estate scorsa ho fatto il presidente di maturità alla Ripamonti, all'indirizzo serale, professionale serale, e ho scoperto che questo segmento è assolutamente in crisi, e mi sono dato da fare per quello che sono capace, ovviamente, per tentare di promuovere il fatto che dei ragazzi che non stanno facendo assolutamente nulla oggi, per esempio, provassero a sostenere un percorso serale. Questa cosa credo che sia una questione seria. Di là quelli stanno chiudendo perché non hanno clienti, usiamo questa brutta parola. Dall'altra parte ci sono dei ragazzi che non sanno cosa fare, non sanno come tirar sera, sono demotivati, non hanno più la voglia di, e poi ovviamente nasce la questione se va bene che passino la sera con il drink iperalcolico per poi rompere qualche bottiglia e poi esplode tutta quanta la vicenda. Il problema è che questi ragazzi davvero, io penso a questi, cioè quelli della fatica, non quelli del lusso, tra virgolette, insomma, ma questi davvero non riguarda nessuno. Questi danno solo fastidio. Questi sono solo un punto di irritazione per chi alla sera vuol dormire, come la puzza, io abito in via Torino, per dire che sono dentro la pesca. Sto dicendo che questo argomento viene preso, tra virgolette, come un argomento essenziale, centrale, prioritario, sapendo che però non stiamo parlando di quelli lassù, ma stiamo parlando di quelli laggiù, e siamo consapevoli che lì dobbiamo anche mettere delle energie. Energie vuol dire non soltanto soldi, ma qualità delle persone. Io non ci credo che i temi della socialità si risolvano solo con i soldi, si risolvono prima di tutto con la qualità delle persone. La scuola è un bel posto, ma tutti avete sperimentato insegnanti che sarebbe meglio che avessero fatto altri lavori, pur avendo una grande competenza dal punto di vista disciplinare. Questa è la vicenda. Come ci misuriamo? Io credo che abbia senso quello che è stato lo spunto iniziale, che bisogna fare rete, mettersi insieme, discutere, eccetera, e trovare le risorse migliori da spendere lì. All'inizio del ragionamento io dicevo, ma ne sono assolutamente convinto, che il problema oggi non sono soltanto quelli che stanno male, ma quelli che stanno scivolando progressivamente in quella storia lì. Dobbiamo sostenere processi che rendano il lavoro dopo, se del caso anche prima, o lo studio, l'elemento che ti fa stare in piedi. Nessuna persona sta in piedi se non costruisce autonomia. Noi dobbiamo dare l'autonomia alle persone. Per questo chiediamo che si investa il massimo dell'intelligenza prima di tutto, delle relazioni, della rete e delle risorse. Credo che sia l'investimento centrale. Io per cavalleria darei l'ultima parola a Gisella Introzzi, che voleva replicare un attimo all'intervento della signora Lang, brevemente. Rapidissima, e non per replicare ma per un commento, perché sono assolutamente d'accordo che una delle sfide più difficili è proprio quella di far tornare a funzionare la macchina organizzativa. Vuoi per le sue dimensioni, vuoi perché quando si instaura una cultura organizzativa di un certo tipo, per rimuoverla ci vogliono degli anni. Ma questo è veramente un elemento molto, molto critico, molto difficile, ci sarà da lavorare, ma l'importante è averne consapevolezza e avere la volontà di affrontarlo. Lei ha detto una cosa molto importante, perché nel citare le cause di questa situazione non è partita dai dipendenti comunali, è partita dai politici che ci stanno sopra e dalla selezione dei dirigenti che loro hanno fatto, che evidentemente non è stata una selezione avvenuta sulla base di competenza, ma sulla... Quindi questo è il quadro, da lì bisogna ripartire. Poi io ho fatto direttore del personale in realtà molto grosse e so che comunque fra i dipendenti pubblici di gente brava, motivata, ce n'è molta. Bisogna ridargli il senso che la differenza fra chi si impegna e chi non si impegna viene riconosciuto, possibilmente anche sul piano economico, ma anche con la quale il lavoro viene svolto, è una cosa fondamentale per cambiare. Grazie. Bene, io chiuderei qui anche perché appunto venerdì sera i quattro candidati, lo ricordo, saranno in diretta, immagino, su Espansione TV per il duello finale. Bocca al lupo a tutti e quattro, grazie per chi ci ha seguito.